Ciao a tutti e a tutte, e sono contento di essere qua con Gianni e con Alessandro a parlare un pochino di questo nuovo lavoro di Gianni Di Martino, che è un romanzo magnifico. Io mi sono letto un po' di interventi che sono usciti in rete, recensioni, interviste a Gianni, ho visto la diretta Facebook, anche se in modalità differita, di qualche settimana fa. Cercherò di non toccare le stesse corde, le stesse fascinazioni che altre persone molto più brave di me hanno toccato in queste settimane parlando del romanzo di Gianni. Vi leggo qualche riga che probabilmente ci aiuta a immergerci, o comunque ci dà un punto di ancoraggio iniziale per poi provare insieme a improvvisare. Loro non sanno esattamente io cosa mi sono preparato, cosa proverò a dire, e naturalmente in qualsiasi momento mi interrompete e vediamo come siamo in grado di procedere insieme. Grazie. Erano i tempi della morte, della droga, dell'Oriente, e quell'anno in cui tutto si annodò a Mogador, tutti eravamo fatti di acido, di kif, di vento, di gin, di lingue in collisione e di sardine. Non avevo alcuna nostalgia del mio paese natale, un'Italia lontana in cui inconscio, più che rizomatico e desiderante, si rivela piuttosto feroce, meschino, polipesco. Ai cittadini di un altro mondo, come allora la stampa di regime definiva i beat, gli hippies e gli altri refrattari, occorreva un altro desiderio, un desiderio più alto e più veloce della morte abituale, e cercare una via d'uscita e l'illuminazione, come Buddha, oppure come Gesù, vivere come i gigli dei campi e le bestie del cielo. Vivere, solo vivere. Esisteva forse un sogno più bello e crudele di questo? Ho cominciato leggendovi queste parole perché si legano un po' più facilmente a un mondo che conosco abbastanza bene, cioè il mondo dei ragazzi che negli anni 60 scappavano di casa, cercavano una via in comune per cambiare la loro vita, fondavano riviste anche di matrice letteraria, scrivevano poesie, perché il romanzo di Gianni in qualche modo parte proprio da questo desiderio, da questa esigenza di questo ragazzo europeo che decide di fare un passo incerto in un mondo per lo più sconosciuto, il mondo del Nord Africa. Anni fa ho curato la riedizione di un romanzo che da alcuni è stato considerato un romanzo psichedelico, non tanto per lo stile ma più che altro per gli argomenti trattati, che ha una serie di connessioni con il lavoro di Gianni. Questo romanzo si chiama Il Paradiso delle Urie, è stato scritto da Andrea Danna, un ragazzo che comunque era molto vicino alla cava di Mondo Beat o alla vostra modalità di vivere negli anni 60. E anche in questo romanzo, in parte autobiografico, Andrea Danna racconta la storia di un giovane europeo cattolico che prova a fare un salto un po' nel buio, che lo porterà nel mondo della sensualità, sia erotica, sia in alcuni sogni e incubi dati dalla frequentazione del mondo della droga nel Nord Africa. E in qualche modo tu, Gianni, in un paesaggio editoriale italiano che non ha molto frequentato questo tipo di scritture, ti ci sei voluto confrontare anche tu con questo tipo di matrice, una sorta di fascinazione per un viaggio profondo anche. Ce l'hai avuta questa fascinazione per un viaggio profondo rispetto magari ad alcune scritture più leggere, più prevedibili o stereotipate? Perché in qualche modo il tuo romanzo parla di un viaggio. Cosa ne dici? Sì, sì, un giovane bianco ed europeo che parte, la scusa è fare una ricerca per l'università sui riti di possessione Gnawa. A Essaouira, sulla costa atlantica del Marocco, c'è un rito di possessione che si chiama Derdeba. Cioè praticamente la società costituisce degli spazi in cui è possibile uscire fuori di sé senza essere puniti. anche fisicamente. E poi c'è l'incontro con un ragazzo sedicenne e c'è l'iniziazione a questi rituali. Sì. A Mogador, la città dei djinn, andando oltre, sempre oltre, si andava incontro all'imprevisto. In qualche modo è la storia di un ragazzo, tra i pochi, che decide di voler incontrare l'imprevisto e ci rende questa esperienza. La cosa che mi ha colpito è quanto tu hai usato delle parole con grande sapienza per renderci l'esperienza dell'imprevisto, sia legato alla sensualità, a un approccio anche omoerotico che sconvolge o può sconvolgere. Sconvolge? Non me, lettore, però diciamo se immagino questo ambientato in un'epoca degli inizio anni 70, non era un'esperienza comunque così diffusa, credo, quella che viene raccontata seguendo la storia del nostro personaggio. Era un'esperienza comunque rara, o comunque quel lasciarsi andare a quelle fascinazioni, non avendo nulla di certo che poteva tornare indietro, mi verrebbe da dire che in parte era un'esperienza che poteva sconvolgere molti, no? O scandalizzare, sì, molti. Sì. Per quanto riguarda l'imprevisto, mi sono ispirato alle bucoliche di Virgilio. Virgilio a un certo punto parla del serpente annidato nell'erba. Non so se hai presente questa egloca di Virgilio. C'è questo riferimento al serpente annidato nell'erba, che poi viene ripreso anche da Dante. Il serpente annidato nell'erba è la fortuna imprevista, come in erbe langue, no? Dice Dante. Quindi c'è questa dimensione, c'è la dimensione del tempo, del passare del tempo, perché nello stesso tempo è un giovane neanche ventenne, però il ricordo è quello di un anziano che ha come dei flashback, come si dice nel cinema, no? Ha dei flashback, vive con la moglie Martine. E quindi c'è questo gioco con il tempo, con il tempo, il passare del tempo. Sì. La ricchezza del tuo lavoro sta proprio anche in questo, i vari giochi contenuti in questo romanzo. Tu hai appena accennato il gioco del tempo, c'è il gioco del linguaggio. Spesso tu ti soffermi, o meglio, il narratore si sofferma nel raccontare il significato di parole arabe. Sì. E una componente che è quella che ho, tra le altre, ho apprezzato molto, è la componente che riguarda lo scrittore allo specchio. Cioè qui dietro c'è lo scrittore Gianni De Martino, comunque il narratore avanti con l'età, a Milano, che riflette la sua vita contemporanea e riflette anche le sfumature dell'esperienza che ha vissuto molte decine di anni prima. E questo è, per me, anche l'aggiunta di questa componente in più rispetto alle vicende romanzesche pure rende il tutto più affascinante e più profondo, e l'opera secondo me ne ha avuto un beneficio generico molto alto anche da questa componente. Sì, sì, sì, sono contento che hai notato questa cosa. Infatti è anche una riflessione sull'atto dello scrivere, e questa era una cosa che piaceva molto a Giuseppe Pontigge. Cioè praticamente è anche un metaromanzo, sì, diciamo. Infatti la moglie Martine gli dice: ma non avrai successo se scrivi un metaromanzo, un libro di questo genere. Poi gli nasconde i testi che lui va scrivendo, correggendo continuamente, li nasconde in una scatola, perché lui, questo anziano che scrive, a un certo momento dice: non so più se quel ragazzo che piangeva nel mio letto sia il ricordo di un romanzo oppure di uno dei miei giorni. Quindi gli nasconde i testi la moglie Martine. Sì. È un'interrogazione anche sull'atto dello scrivere. Sì. Tu hai citato Pontigia e vi leggo una cosa. Milano, 2 giugno 1996. Pontigia scrive a te: caro Gianni, quello che mi ha colpito nel tuo testo è che i percorsi dentro la scrittura diventino scrittura, una scrittura brulicante di idee, il cui sviluppo prevedibile è subito eluso e negato dalle irruzioni e dalle intersezioni di altre idee che la disorientano e la sconcertano. È una prosa concitata e insieme lucida, controllata, in cui le immagini sono idee e le idee immagini. E ne esce un'idea forte dal punto di vista esistenziale ed etico, che è quello che più viene marginato dalla chiacchiera del giornalismo culturale. Quanto ai tardigradi editoriali, come li chiamo, io li vedo piuttosto, nella maggior parte dei casi, come impiegati ligi a un dovere immaginario che è innanzitutto quello di tradire ciò che dovrebbero fare. Vabbè, ah sì, Pontigge era di manica larga, lui era funzionario della Mondadori, era molto ironico anche sul mestiere che faceva, era di manica larga, infatti è stato uno dei pochi che ha elogiato le poesie di Eros Alesi, mentre Pasolini lo stroncava. Non so se ti ricordi quest'antologia. In cui ci sono anche le poesie di Alesi. Lui ne parlò. Poesia degli anni 70. Poesia degli anni 70, sì. Curata da Siciliano, forse. Sì, anche forse. Da Pontigia, sì, c'era Pontigia. Io ho letto questa lettera del 96 e adesso ti voglio chiedere, ma Pontigia stava già scrivendo in relazione a quello che poi è diventato il tuo romanzo? Questa lettera del 96 sono parole relative a delle bozze? Sì, di quello che vediamo adesso? Sì, sì, relativa a delle bozze del romanzo. Sì. Ci racconti un po' questa evoluzione lunga, lenta? Sì, è un diciamo che è un'opera viva, perché è il rifacimento di Hotel Oasis e di un altro libro uscito in precedenza. Sì, un'opera viva che si fa continuamente, sì. Quando hai pensato per la prima volta di scrivere quello che poi è diventato La città dei gin? Sì, il precedente è Addio a Mogador, mm-hmm. E poi c'è Hotel Oasis. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa, l'idea iniziale? Sì. Vorrei farti una domanda. È una trilogia, è un'opera vivente, cioè si scrive sempre lo stesso romanzo. Io prima ho accennato brevissimamente al tuo portare avanti questa fascinazione per la sensualità. In questo tra alcuni personaggi, magari senza svelare troppo, ci vuoi raccontare qualcosa anche del rapporto che ci poteva essere tra Occidente e Oriente, legato a un certo mondo di portare avanti sensualità e erotismo? Magari raccontaci tu qualcosa. Ma il soggiorno in Nord Africa diventa anche l'occasione, poiché lui è uno studente di linguistica, deve fare una tesi di laurea col professor Labaliou, Pierre Labaliou. Pierre Labaliou è un eteronimo del professor Georges Lapassade dell'Università di Vincennes. E quindi il viaggio diventa anche il pretesto per fare delle ricerche di etnosessuologia magrebina, cioè lì i costumi sono un po' diversi, però in cosa sono un po' diversi? Che i ragazzi vanno con i ragazzi, le ragazze con le ragazze, c'è la cosiddetta bisessualità mediterranea, però si fa ma non si dice, cioè la vita sessuale è denegata continuamente, quindi è anche l'occasione per fare una ricerca di etnosessuologia. I testi di etnosessuologia sono soprattutto in Addio a Mogador, qui sono più ridotti. Sì. Questo per quanto riguarda l'aspetto della sensualità. Impiego 30 pagine per descrivere un'inculata. 30 pagine, non so se l'hai notato. L'ho notato e l'ho gustato. Al rallenti. L'ho gustato. Ah sì? Sì. Sei un depravato, un perverso. No, è un mondo che conosco poco, quindi tutto quello che posso rubacchiare senza fare l'esperienza vera finora mi interessa. Voglio toccare una componente che finora non ho visto toccata in profondità da altre persone che hanno voluto riflettere sul tuo romanzo. C'è la componente dell'amicizia. Vi leggo una citazione e poi voglio vedere, sono curioso di ascoltarti. Insomma. Beh, grazie, l'hai letto attentamente, grazie. Mi hai dato 500 euro per fare questa serata e ci ho lavorato bene. scusa. Insomma, era un momento politico, diciamo, la possibilità di dover fare faccia all'amico o al nemico. In questa fase, in questi mesi della mia vita, sto cercando di studiare un libro profondamente interessante e molto complesso, che si chiama Politiche dell'amicizia di Derrida. E io dentro, dopo aver riletto questa frase, ci ho risentito il portato di questo saggio, che è una riflessione esclusivamente su chi è, che cos'è l'amico e chi è, che cos'è il nemico. Tu, senza, diciamo, razionalmente raccontare troppo, tu stai portando avanti una riflessione su chi è o chi può essere o che senso ha il mio amico con la maiuscola. Questa è un'altra chiave di lettura, secondo me, interessantissima. Sì, perché è anche una la storia di un'amicizia, il libro, sì. Cioè, quali sono i confini dell'amicizia? Una vera amicizia dove ti può portare? Senza magari avere delle paratie stagne per definire si può arrivare fino a lì, oppure si può arrivare ovunque. Tu qui fai vedere anche, fai sentire anche quanto un'ipotesi di vera amicizia può portarti in territori assolutamente inesplorati prima. Dico bene? Questa chiave, sì, di lettura, sì. Sì. Ci può stare in questo tuo, sì, romanzo? Sì, ci può stare, sì. Anche perché questi sono... Il Nord Africa, i paesi islamici, sono paesi in cui l'amicizia è molto sentita. Il gruppo amicale è molto sentito, a differenza che nei paesi occidentali, che sono più individualisti, lì c'è questa specie di fraternità che non c'è nei paesi occidentali. È un altro tipo di società. E sottolineerei una parola. Io mi sono reso conto, quando stavo studiando il libro di Derrida, quanto, parlo per me, però credo per una parte di voi, quanto non siamo abituati a considerare la categoria politica nel mondo dell'amicizia. Derrida ci ha dedicato un libro di 300 pagine e anche tu scrivi. Insomma, era un momento politico, stai dicendo, eh? E questo per me ricorda anche profondamente l'esperienza che voi avete fatto negli anni 60 di comunanza con altri ragazzi, con altre persone, fondazione di riviste. Era di fatto un momento politico, non era un momento partitico, ma era un momento politico anche. Sì, e tu comunque, sì, lo ricordi. Sì, l'underground era basata su questo, sull'amicizia essenzialmente. Però dico, sul valore anche politico di quel tipo di amicizia, certo, di quel tipo di esperienza. Certo. E non siamo abituati a parlare di quel tipo di amicizia con anche un valore politico in qualche modo. Sì. È vero, sì. Di matrice magari più esistenziale o antropologica, non partitica, sì. Però questo per me è interessante, sì. Ricordo anche una frase che mi ha colpito, il virile coraggio di essere teneri, che in qualche modo rientra un po' in questa riflessione ultima che stiamo facendo, no? Sì. Sì. Come andare oltre quelle categorie, e in qualche modo c'è qualcosa di politico anche lì, il virile, certo, coraggio di essere teneri fra ragazzi, sì, c'è qualcosa di politico che ci stai forse volendo dire dentro le trame del tuo romanzo? Sì, sì, indirettamente, sì, certo, sì. Domanda per il signor editore: ci racconti un po' come è andato l'avvicinamento con De Martino? Cioè, come mai è saltato fuori da voi che, correggimi, la nuova carne si dedica più che altro a tipologie romanzesche altre rispetto all'esperimento, sì, di Gianni? Solitamente funziona. Solitamente pubblichiamo letteratura di genere, fantastica, eccetera, però abbiamo sempre avuto l'idea di esplorare i temi dell'underground e quale. De Martino, adesso sinceramente il punto di contatto iniziale non me lo ricordo, non mi viene in mente. Perché però... eravate anche voi in una sorta di interzona tutta vostra, non ti ricordi i dettagli? No, non mi ricordo i dettagli, però la nostra idea è sempre stata esplorare il mondo underground. Vengo anche da questo tipo di cultura, di background culturale, diciamo. E nel momento in cui abbiamo scoperto che De Martino aveva la possibilità di ripubblicare, di rimodellare un vecchio suo scritto, che appunto è questo volume è Hotel Oasis, rimodellato, riaggiornato, con delle parti le parti ambientate a Milano non c'erano prima. Abbiamo preso la palla al balzo. Per me è un romanzo che ha tutta la possibilità di trovare lettori anche nei giovani di oggi, no? La nostra idea era questa, no? Di riproporre un attimo una cultura, una sottocultura, chiamiamola, che insomma penso che sia importante, no? Riproporla. E speriamo di continuare poi anche in questa strada, diciamo. Però mi hai fatto parlare troppo, che io non devo parlare, perché io devo. Siete voi che siete gli artisti. Gianni, ci racconti un pochino quali sono stati, se ci sono stati dei maestri significativi per la stesura della città dei Gin? Ci sono stati degli scrittori che ti hanno ispirato sia per contenuti sia per lo stile? Sì. Per quanto riguarda i dialoghi, che sono molto curati, mi sono ispirato agli americani. Ellis, che ho avuto modo anche di intervistare quando venne a Milano, quando presentò Le mille luci di New York. Però il libro non è minimalista, non ha niente a che fare con Ellis, solo per quanto riguarda la cura per i dialoghi, che penso che siano molto belli. E poi naturalmente mi sono ispirato alla letteratura francese, di autori che sono stati in Africa. Moravia paragonò l'Hotel Oasis all'Immoralist di André Gide, non aveva torto, e quindi André Gide certamente, che è anche presente nel libro. Un autore meno conosciuto che si chiama Ogeria, che è vissuto in Nord Africa, e Tony Duver. Sì, sono questi autori qui. Io rilancio con un autore che non hai citato, perché se ne trovano delle tracce non così palesi, ma se ne trovano, sia a livello di contenuti, soprattutto a livello di alcuni contenuti più che per il suo stile classico, cioè Burroughs. Mi ha colpito, sì, in particolare una frase che ci riporta, per chi conosce William Burroughs, come signor Alessandro. Eccoci in mezzo a una piccola banda più o meno segreta di giovani mutanti. Qui siamo nel territorio di Burroughs. Tu però non porti avanti lo stile del pasto nudo, che è uno stile altamente sperimentale. La tua prosa è sostanzialmente, adesso correggimi, è abbastanza piana. È una, sì, è facile, è scorrevole. È scorrevole. Sì. E ci riallacciamo però a un certo tipo di opere di Burroughs. Io mi sono portato Terre occidentali, che è l'ultima opera di Burroughs, scritta con uno stile sorprendente per il signor Burroughs, cioè uno stile piano, uno stile comunicativo, passatemi questo termine. E quel viaggio che fa nelle terre occidentali Burroughs ha delle connessioni con il tuo viaggio, con una tipologia di incedere in qualche modo. Poi sì, Burroughs sì. È stato anche lui in Nord Africa. Sì, sì, Burroughs era presente, sì, era presente. Infatti c'è stato un professore della Columbia University che si chiama Greg Mullins, che lesse un mio testo scritto tempo fa, che si intitola Un italiano in Marocco, Un italiano in Marocco, in un suo libro dedicato alla scrittura dell'interzona, cioè Paul Bowles, Burroughs, eccetera. Diciamo che questi autori sono animati da un desiderio coloniale, una cosa assurda, non vera, perché non si andava lì per fare marchette con i locali. I beat che andavano in Nord Africa erano animati da un desiderio di fratellanza, di amicizia. Non c'era questo rapporto cliente, mentre invece questo Ted Mullins è la seconda parla di desiderio coloniale. È la seconda volta che esce la parola interzona, che c'entra anche qui profondamente con il tuo libro. Sì. Cioè la fascinazione. Sì, l'interzona è Sawir, mentre l'interzona di Burroughs è Tangeri. Sì, ma oltre all'aspetto geografico, fisico, sì. Cioè l'interzona. Sì, l'incedere verso un viaggio iniziatico. Sì, anche una zona dello spirito, certo, l'interzona. Io mi sono segnato il far saltare categorie e demarcazioni, ci certo. Porta in una sorta di interzona. E tu lavori magnificamente bene su questo romanzo, proprio su quel far saltare in una maniera coinvolgente, affascinante per il lettore, le demarcazioni. sono omosessuale, sono eterosessuale, non si va avanti con questo dualismo troppo schietto, troppo netto, troppo duro. È tutto una fascinazione alla luce di un viaggio iniziatico. Sì, quindi sì, ci porti in una sorta di interzona, sì, con sotto, questo romanzo. Sotto il segno di Dioniso. Sì. Cioè Dioniso è l'appello di un'altra lingua, di un altro corpo, di un altro mondo. Sì, è presente questo. E ritornando a un concetto che abbiamo toccato... Infatti i djinn rappresentano l'inconscio, no? Dicevo, ritornando a un concetto che abbiamo toccato prima, il politico, mi dici cosa ne pensi di quello che sto per dire? In qualche modo, se c'è del politico in questo lavoro di Gianni De Martino, potrebbe essere la presentazione di una ricerca dell'umano integrale? Cioè, questo è quello che dice Zan Domenichi. Sì. Sì. Cosa ne pensi? Cioè, tu, anche grazie a questa storia, ci stai facendo vedere un'ipotesi, un tentativo, con anche i pericoli di questo tentativo, di una ricerca dell'umano integrale, che mi riallaccia molto anche le vostre esperienze degli anni 60. Sì. Ci sta? È una forzatura a dire questa cosa? No, ci sta, sì. Sì. Feuerbach, sì. L'umano integrale, sì. Va bene. Siamo curiosi di qualche domanda che arriva da voi. A me sembra di stare con un professore, è vero? È vero, sei un accademico. Beh, la prendo come una piccola offesa, però, questa cosa che dici. È una piccola offesa? Sì. No. Ma io ho finito, io mi sono preparato 3 mesi, ho finito, adesso non so di niente. Sei un vero lettore, il libro ha bisogno del lettore, infatti il libro diventa libro lettore, no? Come diceva... Ma è facile essere un vero lettore del tuo libro, perché è bello. È facile. Perché è un bel libro. Sì, sì. Quindi uno c'ha voglia di dedicarsi a pensare anche delle cose attorno a questo libro, perché sì, è bello, è un bellissimo libro. Sì, sì, il mio lettore ideale è un lettore che abbia un po' di pratica di tecnica letteraria, sì. Sì. Però anche se è sofisticata tutto l'impianto, la scrittura è scorrevole, si legge facilmente, penso, no? Molto, sì. Sì. Qualcuno ha delle fascinazioni, domande? Sarebbe bello farci una chiacchierata più aperta. Se vi è arrivato qualcosa di strano, magari... Io credo che il pregio di quello che abbiamo detto adesso è non svelare troppo del romanzo. Abbiamo buttato lì delle fascinazioni, ma non abbiamo detto tanto. Questo mi piace. O se tu ci vuoi leggere qualcosa. No, volevo leggervi le epigrafi che danno un'idea del libro. La parola djinn può designare a un tempo i demoni e gli angeli. Cosa per niente sorprendente, perché questo termine si applica a tutto quello che è invisibile. Questa è una citazione da Shelod, le structure du sacré chez les arabes. Poi c'è una citazione di Grodek dal libro dell'Es. Io ritengo che l'uomo sia vissuto da qualcosa di ignoto, vi è in lui un Es, un'entità prodigiosa che dirige tutto ciò che egli fa e tutto ciò che gli accade. Grodek, il libro dell'Es. Posso dire io quella di Giorgiorno, poi? Che è un autore letto dalla moglie, Martin, è una lettrice di Grodek. Poi, nessun cazzo è duro quanto la vita. Giorgiorno, voce della Beat Generosa, lo volevi dire tu? Però posso raccontare, ormai l'hai già detto, racconto un aneddoto per come l'ho scoperto io questa storia. C'era negli anni, credo, 90, un quotidiano diretto da Giordano Bruno Guerri, e Giordano Bruno Guerri era in combutta con i proprietari di questo quotidiano. Sostanzialmente ne aveva pieni i coglioni, sapeva anche lui che prima o poi se ne doveva e voleva andare dalla direzione del quotidiano, e una mattina pubblicò titolo gigantesco, prima pagina: nessun cazzo è duro come la vita. Il giorno stesso licenziato. Giordano Bruno Guerri era anche il direttore editoriale alla Mondadori ai tempi di Tondelli, quando Tondelli fece la collana Mouse to Mouse. A 75. No, un po' di più, sì. Quando uscì l'Hotel Oasis era lui il direttore editoriale. Ci leggiamo due paginette e chiudiamo, se nessuna domanda. Va bene. Paginetta delinculata, però. Va bene. Però mi devi dire quali sono, che io ho il faldone diverso. Io posso fare una piccola domanda. Siccome comunque il romanzo tratta diversi momenti della vita, quindi l'autore è già arrivato a una certa età quando inizia a scrivere, però ricorda momenti della sua giovinezza. No? Come dei flashback, sì. Ha dei flashback. Che cosa possiamo, lo so che è una domanda un po' così generica, però che cosa possiamo trovare nei giovani di oggi, di quello spirito, se lo possiamo trovare? Secondo voi, secondo te, secondo l'autore? Risponde De Martino però questa. Ah no, non so. Scrivere tante facce molto giovani. Non so cosa rispondere. Abbiamo una risposta di un giovane. Io ho un pensiero, se posso condividere. La metafora che ho fatto prima della vita con Castoduro e Gin ha risposto un po' alle ricerche della propria sessualità, e quindi dire, non dicendo scusa? Sui giovani di oggi. I giovani di oggi, magari non tutti si devono fare le stesse domande. Pedretta. No, ha ragione, cioè, le domande, no, stavo citando come si chiama il comico, no, le domande possono cambiare, ovvio, cioè, però presumo che intendeva qualcos'altro, insomma, che senza fare lo spirito di comunità, di avventura, di esplorazione, che forse sì, quegli anni sono stati provo a rispondere da professore, anche se mi odio in questo caso. Oggi il vendere il marketing sulla propria esperienza è più importante della tua esperienza. Io vado in Africa sapendo che faccio quelle foto per mettere il giorno stesso su Instagram, e magari prima di partire sto già pensando di scrivere un romanzetto. La cosa che mi ha sempre affascinato e mi inchino nei confronti dell'avventura con la A maiuscola, che riguarda la mia frequentazione dei testi beat, la mia frequentazione dal vivo con alcuni di quei ragazzi degli anni 60 come Gianni, e che per loro contava l'avventura con la maiuscola. Tutto quello che veniva fuori dopo sarebbe capitato dopo. Non era un pianificare un'esperienza per il proprio automarketing. Oggi viviamo in quella situazione. Oggi è più importante veicolare gli inizi di un'esperienza che farla davvero. E lo vedo anche nel mondo culturale italiano. E questo, secondo me, è un po' una modalità cancerogena. Cioè, vivere l'esperienza, pensando all'esperienza, è la morte della stessa. Oggi viviamo quella roba lì, però. O fotografandola, continuando a filmarla mentre la si sta vivendo. Cioè, è la morte della stessa esperienza, non la si vive. È un altro da sé. Ma questo è nato, presumo, già da prima, comunque, dell'avvento. Provo a raccontare un paradigma classico, mi verrebbe da dire ormai oggi. Un ragazzo che si chiamava Arthur Rimbaud ha sconvolto la poesia dell'Occidente forse per sempre. Quel ragazzo, i frutti di quello sconvolgimento li abbiamo letti dopo la sua morte, la maggior parte. A lui, adesso schematizzo tanto, naturalmente, esagero un po'. A lui interessava vivere la poesia, essere poesia, non veicolarla agli altri. O meglio, sto esagerando, gli interessava soprattutto inizialmente parlare con i suoi pari. Però il messaggio profondo, molto duro, è: fatela, se poi te la fai in una soffitta e magari qualcuno ti conoscerà 30 anni dopo, tu cazzo, l'esperienza di serie A con la vera poesia, un vero sconvolgimento, un vero step successivo, stai salendo dei tuoi gradini, tu lo stai facendo. Mentre oggi è importante comunque che mi pubblica qualcuno, poi tanto se faccio cagare non è così importante. Appunto, a 17 anni la bollata del tutto è partita. Diciamo che per decine di anni la matrice Arthur Rimbaud è stata una fascinazione seria e forte anche nell'esperienza italiana degli anni 60. Oggi quella modalità è una modalità di un pazzo. Cioè, tu stai scrivendo capolavori Vai in giro a viaggiare, ti fai i cazzi tuoi sostanzialmente, o provi nei tuoi ambienti a veicolarti, ma non più di tanto. Ti interessa viverla la faccenda, sì, non strutturarti il termine con cui descrivere l'arrivo di Rimbaud nell'universo della poesia del suo tempo è esplosione. Fu veramente esplosivo, sì. Pagina 119. Leggi tu? No, 109. No, leggi tu, perché... Ci sono termini strani arabi? Perché no. 109? 109. Sbronzi? Sbronzi. Leggo la prima pagina, Gianni? Sì, leggi 10 righe. Leggo 10 righe, ma la riga in francese la leggi tu. Va bene. Sciolti gli ormeggi e sparse le trecce, uno dei due, chi non importa, si mise per primo al galoppo per esplorare il vento e il mare, il diritto e il rovescio, yin e yang, e i gagliardi movimenti del piacere del liwat fanno finalmente scricchiolare il legno del letto, comunicando scosse e vibrazioni a tutto il corpo e al sacco a pelo e alle pareti della casa di Alimà, ai bastioni di Mugadur, al mare, al cielo e ai pianeti. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, questo è Rimbaud. Vedi, esplosero i troni, le presidenze, i tribunali e saltarono in aria tutti i mitici angeli di Sodoma e Paperopoli e i tabernacoli della persuasione, finché presi e trasportati, la faccia travolta dall'estasi amorosa nel cuscino e il culo per aria, la schiena e il petto ricoperti da armature di piccoli lampi, non giungemmo al rogo. Sì, accesi di brucianti, di un calore magico, aperti come ostriche e nudi come anime alla luce o flash sfolgorante di uno spazio immenso e senza centro né legge né periferia. Era quasi un'esperienza mistica. Non sono forse tutti gli amanti, così come anche le streghe e gli stregoni, afflitti dai lampi? Ecco, va bene, grazie.